now boarding. Now boarding. Welcome. Grazie. Grazie, senti tocchi che carina questa. Carina, carina. Welcome to the radio connection. Guardavi solo me mentre cantavi Chinatown. Chinatown. L'orchestra ripeteva Shibidoo. Mi resta solo un disco per tornare giù da te a Detroit. Maestro, possiamo cominciare? Possiamo cominciare. Bene ragazzi, bentornati a Now Boarding. Questa è Now Boarding, ragazzi, il programma che parla degli italiani all'estero. E questo ormai si sa, sono ripetitivo. E niente ragazzi, è sera, è bello, siete in macchina. Dove siete? Siete a casa? State venendo via dal lavoro adesso? Bene, non c'è occasione migliore per ascoltarci. E per pensare a fuggire, probabilmente, se a quest'ora si esce dal lavoro, no? Sì, oddio, dipende che lavoro fai. Le 9 è un po' difficile. Magari qualcuno comincia a lavorare, no? In effetti, è vabbè, una possibilità. In caso, buonanotte e buon lavoro. E... oh, si sente che sei tornato. Che fine hai fatto? Sarà un mese che non sei ai microfoni. È un dilemma qua da spiegare. Infatti... abbiamo 45 minuti. Sì, ma li dedichiamo per fare altro, cosa dici? Vabbè, grazie. Quasi quasi. Te ne parlo dopo allora. No, comunque ragazzi, scusate, so che avete sentito la mia mancanza in maniera, come dire, eclatante. Sì. Sono arrivate mail. Sì, ma tutti fan, no? Tredicenni, ragazzine dodicenni che ti chiedevano di te. Ah, possiamo andare avanti? Forse è meglio. Ok, quindi vabbè, intanto per spezzare il silenzio che va creandosi viste le tue affermazioni, direi che ci ascoltiamo i Rotterdam Ska Jazz Foundation con A Night in Tunisia. We'll be right back. Rotterdam Ska Jazz Foundation con A Night in Tunisia, quindi due sono le cose, o siamo a Rotterdam o siamo in Tunisia, giusto? A parte che l'avevo già detto io comunque quel che era, cioè, ma volevo farla... sempre fare il figo della situazione, volevo no? Fare la battutina, la pronunciation, no? La battutina comunque è stata percepita. Dove allora, siamo a Rotterdam o in Tunisia? Siamo in Tunisia, in Olanda siamo già stati. È puntata con un progettino interessante, ci sono diverse persone che sono andati all'estero, sono riusciti a far realizzare un'idea, un progetto. Questo è interessante, a metà, no, tra il sociale e l'arte, no? E l'arte, diciamo, anche se vogliamo parlare in termini più tecnici, e anche nell'imprenditoria. Sì, esatto. A questo punto, senza dover senza anticipare nulla, però diciamo che qualcuno qui ci riesce, a quanto pare. E questo qualcuno... Chi è? Manuelita. Ciao Manuelita, ci sei? Ciao Manuelita, sì. Buonasera! Ciao a tutti, buonasera! Benvenuta. Grazie. Bene, e come stai? Bene, grazie, abbastanza bene. Bene, ci fa piacere. Checo, fa piacere anche a te? Certo che mi fa piacere. Manuelita è un nome di origine spagnola? Sì, è un nome di origine spagnola, ma sono italiana. Di dove? Calabrese, sono della provincia di Crotone. Crotone, visto, ha detto subito, siccome prima, ragazzi, io fuori onda gli avevo già chiesto, ha premesso Calabria perché ha visto che ho titubato. Sul Crotone. Crotone. Un po' lì. Quindi Vabbè. È già iniziato il terzo grado. È già iniziato il terzo grado, direi che possiamo continuare. Ok. Va bene, quindi vabbè, terzo grado, età. 31 fra pochi giorni. Che cosa, 31? È vecchia questa. Bene, di dove sei? Te l'ho già chiesto. Beh, ragazzi, premetto, il terzo grado è l'unica cosa che abbiamo scritto, il resto è improvvisazione, quindi concedetemela. Dove sei adesso? Adesso sono a Tunisi. Uh-huh. E vivi stabilmente lì, quindi? Sì, ormai vivo qui da un po' di tempo, da 6 anni. Come mai hai scelto la Tunisia? In realtà non ho scelto, è successo un po' tutto per caso. Mi sono trovata qui e sono rimasta. Ho capito, che sei lì da 6 anni, ci hai detto, e quindi sì. Non avevi programmato, immagino, di restare così tanto. No, quando sono arrivata qui la prima volta avevo programmato di fermarmi un mese, poi le cose sono andate diversamente. Un attimo allungata la cosa. Un mesetto. Sì. E quindi cos'è che ti ha tenuto lì, più di tutto? Ma tante cose in realtà. All'inizio quello che mi ha colpito è il fatto che mi sono sentita subito a casa, non mi sembrava di essere veramente andata in un paese straniero. E poi subito dopo invece il fatto che mi sono accorta di essere veramente in un posto diversissimo da casa. Tutte queste due cose insieme mi hanno convinto a restare. Anche se sembrano l'una l'opposta dell'altra, però insieme hanno funzionato, no? Infatti. Bene, attualmente cosa fai lì? Attualmente faccio diverse cose perché sto seguendo diversi lavori contemporaneamente, quindi sono un po' perché insegno all'università e in più insieme a mio marito abbiamo messo su due progetti, una società di servizi e un'altra invece che è una cooperativa sociale. Ascolta, ma dura sempre 24 ore la giornata in Tunisia o dura di più? Effettivamente purtroppo dura solo 24 ore, quindi... È un po' difficile conciliare tanti tutto. Caffè, no? Sì, tanti tè qui. Tanti qui tè, è vero, il tè tunisino. Bene, ma quindi torni spesso in Calabria? Cerco di tornare spesso, di solito torno Natale, d'estate, almeno un mesetto d'estate cerco di tornare, anche perché la mia famiglia, i miei genitori sono in Calabria. Ma i collegamenti con Tunisi sono buoni? Vieni a nuoto? Come vieni? Come, scusa? I collegamenti con Tunisi come sono? I collegamenti con l'Italia? Sono abbastanza buoni per quanto riguarda il centro e il nord Italia. Per andare in Calabria devo fare un po' un'odissea perché è un po' complicato. Però sì, più o meno buoni, viaggio sempre in aereo comunque. Ah, ok. Certo. Dai, allora il fascicolo di Manuelita l'abbiamo compilato. Mandaci due foto tessere e ti stampiamo, sì, anche i nostri una frontale e okay. Una di profilo, va bene? Va bene, ok. Va bene, e intanto Checo, lasciala presentare a me, questo è uno dei miei pezzi preferiti dei last 10 years. Sì, ti faccio un attimo sentire una cosa, attento. Cos'è? Bene, direi, ragazzi, a questo punto che commenti lassù per cortesia. Ecco, ci siamo, il nostro DJ Checo in console. E questo è un figo, ragazzi. È un tedesco di quelli seri. Si chiama Paul Kalkbrenner e questo è un gran pezzo, Sky and Sand. In the night time, when the the saddest rest, you will find me in the place I know the best. Dance and shout then, flying to the moon. Don't have to worry, 'cause I'll be come back soon. Sabbia, questa era Cielo e Sabbia, ragazzi. Dovreste aver visto Checco, si è sentito qua il Brenner per 3 minuti e 30 secondi della canzone. È fin sudato, caro. Sì, a me ricorda una volta in cui la Lufthansa mi ha abbandonato una notte a Francoforte, e non so perché è legato a sta canzone. Comunque, a parte questo, allora Manuelita, intanto io suggerisco a chi ci ascolta, ma soprattutto in streaming, di aprirsi un'altra finestra del browser e di digitare www.atelierdarnisse.com, così intanto ci seguono lì. Ci spieghi tu che cos'è questo atelier? Allora, l'atelier è un progetto che abbiamo messo in piedi io e mio marito circa un anno fa più o meno, ed è anche questa una cosa che è nata molto per caso. In realtà noi ci trovavamo in una zona della Tunisia che è l'ovest tunisina, al confine con l'Algeria, ed eravamo lì giusto per un giro turistico, e questa zona ci ha colpito proprio perché è una zona di estrema povertà ed è molto diversa dalla Tunisia che ero abituata a conoscere io, la Tunisia della costa, della capitale. Quindi siamo rimasti veramente colpiti dalla povertà di questa zona e ci siamo fermati in un piccolissimo villaggio proprio al confine con l'Algeria, e lì anche casualmente abbiamo conosciuto un gruppo di donne che ci ha accolto subito con grandi sorrisi, con una grande accoglienza. Queste donne ci hanno veramente toccato il cuore, soprattutto quello che ci ha colpito è il fatto che comunque fossero sorridenti, fossero piene di ottimismo. Come quindi, si chiama il villaggio? Il villaggio si chiama Mahassen ed è nella zona del Kef, per chi conosce la Tunisia è il governatorato del Kef. Quindi siamo appunto nella zona est verso l'Algeria, no? Sì, è proprio al confine fra Tunisia e Algeria, esatto. E quindi cosa è successo? È successo che tornando a casa non riuscivamo a toglierci dalla testa il pensiero di questo villaggio, di queste donne, e quindi abbiamo iniziato a parlare, a pensare qualcosa da fare per poterle aiutare, anche qualcosa da fare che ci permettesse di tornare lì spesso, sì, e di avere un rapporto con queste persone. Esatto, quindi abbiamo pensato di mettere insieme un progetto, abbiamo cercato di capire insieme alle donne che cosa loro sapessero fare, abbiamo scoperto che sono tutte bravissime a lavorare a mano, i tipici lavori femminili, quindi il telaio, l'uncinetto, i ferri, e ci ha colpito anche perché sono lavori che secondo noi stanno scomparendo purtroppo. Sì, qui da noi è lavori... praticamente inesistente, cioè se, vai, se chiedi di una sarta o ci metti una vita o quella che trovi devi pagarla tantino, perché sì, appunto ormai ce ne sono poche, no? Ormai stanno sparendo, sono i lavori delle nostre nonne, e sono lavori che secondo me accomunano un po' tutto il Mediterraneo, perché ci sono in Italia come da quest'altra parte. E quindi ci è sembrato un'idea carina di mettere insieme un atelier tessile, quindi una sorta di cooperativa tessile dove le donne potessero lavorare. E il nostro contributo era di darle una mano per cercare di vendere, poi di far conoscere questi prodotti. Certo. E diciamo quindi che progetti avete per il futuro? La cosa va avanti, da quello che mi dici, no? Sì, la cosa sta andando avanti, purtroppo abbiamo avuto subito grandissime difficoltà, anche perché abbiamo un po' sbagliato i tempi, tra virgolette, perché noi abbiamo aperto l'atelier a novembre dello scorso anno. Sì, scorso anno inteso come 2009. 2010. E poi, come sapete, a gennaio 2011 c'è stata la rivoluzione tunisina, quindi siamo stati costretti subito a richiudere per diversi mesi. E quando abbiamo riaperto la situazione era comunque cambiata sia a livello di sicurezza sia a livello economico. Certo. Quindi abbiamo avuto molto più difficoltà di quanto pensavamo agli inizi. Ancora adesso abbiamo grosse difficoltà, quindi l'atelier è in bilico, cioè... Noi cerchiamo di continuare, ma potrebbe anche chiudere da un momento all'altro se non riusciamo a ottenere quello che stiamo cercando di ottenere. E attualmente cosa produce l'atelier? Allora, le ragazze lavorano al telaio, producono tappeti, e poi ci sono alcune ragazze che lavorano all'uncinetto e a maglia e producono sia oggetti, sia arredamento per la casa, come ad esempio tende, centrini, classici centrini della nonna, oppure anche accessori come borsette, sciarpe, scialle. Tipo... Anche vestiti. Sì, ma su questo interrompo, sai che adesso non vorrei che ci stessero ascoltando altri ideatori di atelier. Sai che il costume e l'uncinetto dicono che stia tornando molto, quindi se vuoi uno spunto, una cosa così, magari speriamo. Poi ne parliamo in separata sede, vediamo se trovo gli acquirenti e ci mettiamo d'accordo. Magari. Facciamo un po' di trade, sembra pensare ai soldi, eh? No, ma per me sarebbe una salvezza poter trovare, perché quello che ci manca sono proprio gli acquirenti, purtroppo. Sì, ma tipo voi fate, i prodotti che fate sono attuali, cioè, per dire, sono prodotti fatti artigianalmente, rivisitati in chiave moderna, o sono abiti tipici? No, cerchiamo di fare prodotti a mano, quindi che hanno anche un valore artistico, perché sono tutti pezzi unici, certo. Però cercando di fare qualcosa che vada incontro al gusto moderno, quindi ci ispiriamo alla mole. E come mercato dove vi focalizzate? Allora, visto che comunque appunto io ho un'ottima conoscenza del panorama italiano, abbiamo costruito un sito in italiano per il tramite momento. Sito, quindi lavorate tramite web. Tramite il sito, sì, purtroppo ci manca ci manca un contatto fisso, per il momento lavoriamo solo tramite sito. E venendo invece all'aspetto più sociale, e qui abbiamo già visto le due anime del programma tra me e Riccardo che mi ha tirato un'occhiataccia, com'è che subito queste donne sono state così aperte nei vostri confronti, perché magari, non so, erano operatrici del turismo o così, un contatto casuale? No, sono donne che fino a quel momento, cioè sono donne che ha vissuto in un ambito rurale, quindi non hanno mai avuto rapporti con turisti, però comunque fa parte un po' del carattere nazionale tunisino, questo spirito di accoglienza, soprattutto verso gli stranieri. E poi soprattutto in questa zona ho trovato veramente una voglia di conoscere, una voglia di incontrare l'altro che è anche più forte di quella del resto della Tunisia. E le donne sono state subito disponibili con noi, anche perché hanno capito che con noi potevano avere un interlocutore col quale parlare, far capire i loro problemi, quindi questo ci ha... Ma quindi non hanno avuto difficoltà a vedere che comunque tu sei una donna bianca, occidentale, non hanno avuto un blocco? Ah no, assolutamente. Diciamo che un po' un vantaggio è stato... Sì, perché è da sfatare un po' questo mito, no? Perché dicono che... cioè diciamo che... qui da noi è la nostra situazione, come ben saprai, è il fatto che vedono l'immigrato come problema, per carità, può causarlo, ok, non sono il primo a dirlo, però che dicono che quando noi italiani andiamo lì all'estero siamo visti come all'estero, inteso come paesi arabi comunque, quindi fondamentalmente, scusa il gioco di parole, fondamentalisti, quindi un po' chiusi, dicono, no, come mentalità, puntare ad asfaltare questo mito che comunque ti hanno accolta bene. Sì, dipende, è vero che poi dipende molto anche dal modo in cui ci si pone, certo, nel senso, certo, che quello è normale, se si va con uno spirito aperto, pronti al dialogo, anche gli altri si aprono e sono disponibili. E poi, dicevo, un vantaggio è anche il fatto che mio marito è tunisino, quindi diciamo una sorta di mediatore culturale. Beh, in casa. Sì, diciamo che gioca decisamente a tuo favore questa cosa. Infatti. Adesso, Ricky, io andrei con la prossima traccia. Cosa dici? Direi che va bene. Ci risentiamo tra poco, allora. A dopo. Di frontiera guardano passare i treni, le strade deserte di Tosin. Da una casa lontana tua madre mi vede, si ricorda di me, delle mie abitudini, e per un istante ritorna la voglia di vivere a un'altra velocità. Passano ancora lenti i treni per Tosin, nelle chiese abbandonate si preparano rifugi e nuove astronavi per viaggi interstellari. In una vecchia miniera distese di sale è un ricordo di me come un incantesimo. E per un istante ritorna la voglia di vivere a un'altra velocità. Passano ancora lenti i treni per Tosin. Cucurucucucucucucu palaba paloma palaba ai ai ai ai ai ai ai cantava che e comunque questa perché tu mi dirai i treni di Tosin, perché Tosin è proprio in Tunisia. Google Maps insegna. Non te l'avevo neanche chiesto. Ma volevo dare sfoggio di sì, della cultura tua spizza. Cultura, sì. Poi c'era un'altra bella di Battiato, quella che faceva. Beh, così l'abbiamo capita sicuro. Vabbè. Non era questa? Sì, cioè, e gira tutto intorno alla stanza mentre si danza. La finiamo? Bene. Allora, Manuelita, torniamo. La conoscevi te, Manuelita, e gira tutto intorno alla stanza? Sì, la conosco, sì. E allora, visto, la sa anche lei, Checco. Tornando all'atelier, io ti volevo chiedere, cioè, ci hai detto che tu sei stata lì in questo viaggio, poi hai voluto ritornare, però c'era anche una spinta dettata dal voler fare qualcosa per il posto? Sì, Sì, diciamo che la prima ragione per cui siamo ritornati lì era soprattutto per poter fare qualcosa di utile per queste donne che ci avevano così tanto colpito. Quindi anche l'idea dell'atelier è nata non tanto per creare una società, quanto per creare anche uno spazio dove queste donne potessero incontrarsi e crescere sia a livello professionale, quindi imparando un mestiere, sia a livello anche personale, quindi venendo a contatto con altre persone, con altre culture. E infatti l'atelier non è organizzato come una vera e propria società, anche proprio nell'aspetto, sembra più un salotto di una casa. Anche quando abbiamo deciso di arredare lo spazio, l'abbiamo arredato proprio come un salotto di una casa, quindi con dei divani, un grande tavolo dove le ragazze si siedono intorno e lavorano insieme chiacchierando. E poi abbiamo pensato anche di dar vita a delle attività di formazione. Tipo tavola rotonda? Boh, non è rotonda, in realtà è una tavola rettangolare, ma l'idea è quella, sì, quella ho capito, di sedersi tutti intorno in al tavolo. Ok. Sì, e di lavorare insieme, quindi senza nessuna gerarchia, senza nessun ruolo, semplicemente un modo per stare insieme e lavorare insieme. Ok. Scusate l'interruzione. No, dicevi quindi che abbiamo dato vita anche a delle attività di formazione, oltre quindi che di produzione. Sì. La cosa che subito ci ha un po' scioccato è il fatto che molte donne non sapessero leggere e scrivere. Mm. La prima cosa che abbiamo pensato di fare subito è un'attività di alfabetizzazione, quindi abbiamo contattato un insegnante locale e abbiamo iniziato a insegnare loro a scrivere e a leggere in arabo. La cosa che ci ha fatto subito, che ci ha colpito, ci ha fatto ridere, ma ci è anche piaciuta tanto, che dopo 2-3 settimane di corso, le ragazze, già fiere di quello che avevano imparato, hanno iniziato a fare delle richieste: ah, adesso vogliamo anche imparare l'inglese, il francese, e vogliamo imparare a usare il computer, quindi hanno comunque voglia di migliorarsi. Certo. Che un po' stupisce un'apertura così grande, si diceva anche prima, in un paesino sperduto di fatto, no? Sì, infatti, sì, molto spesso queste donne mi hanno dimostrato una mentalità aperta anche più di quelle delle donne abituate a vivere in contesti cittadini, quindi anche a contatto con stranieri come a Tunisi capitale. Ho capito. Quante persone coinvolge più o meno questo progetto? Allora, in questo momento noi compresi in totale siamo 17 persone. Per il momento lì all'atelier ci sono 14 ragazze che lavorano. Poi ci siamo appunto io e mio marito che ci occupiamo un po' del sito e del marketing, più una mia amica che mi dà una mano anche in queste cose. Ho capito, e voi lo seguite da Tunisi invece? Cerchiamo di andare il più spesso possibile, anche perché a me piace tantissimo quella zona, è una delle zone più belle della Tunisia secondo me, quindi cerco di andarci almeno una volta a settimana, anche se ultimamente con problemi vari anche di sicurezza interna del paese è stato un po' più difficile. Certo. E nel passato invece, cioè nel resto dei 6 anni che hai fatto lì? E anche lì tante cose, perché è stato un percorso un po' complicato. Quando io sono arrivata qui, all'inizio ero venuta qui per stare solo un mese per fare un corso di arabo. Dopo quel mese ho... Di la verità che sei andata là per andare in spiaggia. Cioè, sì, sinceramente. Anche. Andiamo l'utile al dilettevole. Sì, perché il corso di arabo era ad agosto, quindi effettivamente come scusa... Hai capito. Come scusa non era molto valida, però... E infatti ho abbandonato gli studi di arabo quasi subito. Per andare alla playa. Sì, infatti, e poi da lì mi sono innamorata del posto, del paese, ho cercato una scusa per prolungare il mio soggiorno. Fortunatamente l'ho trovata quasi subito, perché ho trovato uno stage. Sì. E questo stage poi si è trasformato anche lì incredibilmente in lavoro, quindi sono rimasta 3 anni a lavorare... Credo tu sia una delle poche fortunate stagiste comunque che trasformano il loro stage in lavoro. Effettivamente è stata una fortuna. A Tunisi poi, non stiamo parlando di Milano, Roma o Palermo, Catania, comunque grosse città. Cioè sei in Arabia praticamente, sì, al nord Africa. Ritieniti fortunata insomma, perché qui sono fioi ragazzi che è dura. Sì, lo so. Lo so, anche se è stata comunque molto, sono stata molto fortunata, ma secondo me spesso anche l'intraprendenza, il coraggio paga. Il fatto di lanciarsi a capofitto in qualcosa che magari sembrerebbe impossibile da lontano, poi alla fine qualche risultato lo si ottiene. Infatti io mi sono presentata a questo ufficio, che è una grande organizzazione internazionale, sì, e l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, e sì, mi sono presentata così veramente senza essermi preparata né a un colloquio né a niente, e da lì sono stata subito presa, quindi è stata veramente un po' di coraggio e tanta fortuna. Diciamo, fortuna come no, perché comunque credo che abbiano un'esperienza per riconoscere le persone sveglie, no? Che possono portare, poi visto che ti hanno tenuta comunque, insomma, vuol dire che non per fare dire ovvietà, passatemi il termine, ma insomma si vede che qualcosa ne sapevi. Eh beh sì, grazie. Ah, figurati. E invece poi io ho letto anche un articolo che è postato su vogliovivereconsi.com dove insomma tu riporti che hai fondato, mi sembra, una società, Athena Services. Sì, esatto, perché dopo aver lavorato 3 anni in questa organizzazione, stanca un po' della vita d'ufficio, 8 ore al giorno, sempre seduta dietro una scrivania, ho deciso di cambiare, quindi ho lasciato il lavoro. All'inizio ho iniziato a lavorare in un giornale italiano, poi all'università, e nello stesso tempo ho iniziato a pensare di creare qualcosa di mio che mi riportasse sempre al mondo della cooperazione internazionale, perché comunque era un mondo che mi piaceva e mi piace tuttora. E quindi abbiamo deciso di creare questa società, che è una società di servizi che si occupa proprio di cooperazione culturale. E la cosa bella è che lavora con gli studenti e con le università, quindi è un ambiente molto giovane, molto dinamico. Praticamente la società si occupa della promozione delle università italiane all'estero, in Tunisia in particolare, e segue e assiste gli studenti tunisini che vanno in Italia, che sono tanti. Sì. Quindi scambio, mobilità, insomma, tra studenti. Quindi toglimi una curiosità, noi stiamo parlando veramente con Manuelita o sei Flavio Briatore con la voce da donna, viste le attività continui? Magari. E di conseguenza, quando è l'apertura del primo locale e quando ci inviti? Magari, a parte tutte queste ore di lavoro con Briatore non penso di avere nient'altro in comune. Bene, cosa che ti fa onore, direi. Sì, soprattutto ti fa onore non avere quegli occhialini azzurri che c'è Briatore. Sono inguardabili. Povero Flavio. Pensa, era in Kenya per lavoro, hanno detto, Ah sì? Eh sì, in Kenya per lavoro. Beato lui, no? Dai, direi che... Cosa c'è, Keiko, qui che sta arrivando? Arrivano i Kings of Leon con Cold Desert. Deserto freddo. voglio interrompere il vostro bacio profondo che vi stavate dando, però vi ricordo che abbiamo sempre Emanuelita qui con noi in diretta da Tunisi e direi che potremmo continuare la nostra discussione e voi potreste stare anche attenti, visto il trasporto che hanno avuto con i senti Kings of Leon. Lui ha guardato lei e ha detto: senti amore, per radio ci sono i Kings of Leon, e baciamoci. Questo era la russa che era la russa, baciamoci. A parte la russa, e grana padano, senti grana padano. Esiste ancora Athena Services? Sì, esiste ancora. In questo momento se ne sta occupando soprattutto mio marito, anche perché non riesco a seguirla a tempo pieno. Però esiste ancora, sta lavorando bene. Ho capito, quindi lavorate principalmente con scambi, eccetera, no? Sì, lavoriamo con scambi fra Tunisia e Italia, lavoriamo con molte università italiane, collaboriamo anche qui con l'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi. Ho capito. Con varie università anche tunisine, col Ministero tunisino, quindi comunque è un lavoro abbastanza grosso, abbastanza impegnativo. Bene, bene. Ascolta, non è a questo tipo di immigrazione che mi dicevi tu a cui mi riferisco, però nell'ultimo anno, anche come conseguenza a quanto è successo in Tunisia, un po' l'immigrazione dalla Tunisia in Italia ha creato qualche problema di gestione, eccetera. Tu che la vedi in qualche modo al rovescio? Che idea ti sei fatta, insomma? Diciamo che è abbastanza complicato, anche perché il problema della migrazione è veramente un problema complesso a cui è difficile dare un giudizio. Chiaro. Innanzitutto, secondo me, bisogna distinguere fra diversi tipi di migrazione, perché spesso quando si parla di migrazione si mette tutti insieme, non si fa un distinguo fra, per esempio, come parlavamo prima, studenti che vanno in Italia per studiare. E poi arricchire comunque anche il panorama culturale italiano e poi quelli del loro paese, quindi creando degli scambi e dei contatti, e magari immigrazione clandestina che può generare problemi, Spesso però quando poi si parla di immigrazione si finisce per mettere tutti nello stesso fascio, e quindi spesso poi a pagarne le conseguenze sono tutti. Piuttosto gli altri, piuttosto gli studenti, i lavoratori. Se volessi dare una percentuale, secondo te quanti sono i clandestini e quanti sono gli studenti? Ma io in realtà credo che al di là della campagna... Studenti un po' comunque gente che viene qui per lavorare, intendo, non... Ma io credo che siano la maggioranza, gli studenti, la gente che viene per lavorare o comunque solo per avere uno scambio, anche per fare un progetto con l'Italia, per avere degli scambi commerciali, sono la maggioranza rispetto a quelli che vengono in modo clandestino o magari con propositi poco leciti. Spesso però la percezione che si ha è diversa, ma questo credo che dipenda anche un po' dal modo in cui vengono presentati i fatti dai vari media. Certo. Secondo me la percentuale di chi arriva in Italia per creare problemi o di chi arriva con modo clandestino è veramente bassa. A me intanto è piaciuto quanto hai detto, cioè di persone che vengono qui per arricchire l'Italia, e comunque sì, sono d'accordo su questa affermazione. Ma a parte questo, tu vedi una forte volontà di venire via dalla Tunisia, ma soprattutto nei giovani, nei ragazzi? No, in realtà no, anzi, dipende poi anche dai contesti di cui si parla. Nella città, nella capitale, gli studenti che sono all'università, i ragazzi che lavorano, hanno voglia sì di venire in Italia, ma più che altro come turisti, come noi abbiamo voglia di andare in Francia a passare un periodo di 2 mesi o in Tunisia, per esempio. O in Tunisia, esatto, però non c'è questa voglia di emigrare a tutti i costi. Okay. Certo, se si va nei villaggi del sud o nei villaggi appunto dell'ovest, dove si trova l'atelier, dove le condizioni di vita sono veramente pessime, allora in quel caso magari una spinta alla migrazione c'è, ma è dettata dalla situazione di estrema povertà. Ho capito. E vorrei anche sottolineare il fatto che comunque quando si parla di migrazione bisogna parlare di migrazione in tutti i sensi, non bisogna dimenticare che ci sono tantissimi italiani. In questo momento in Tunisia ci sono più di 3.000 italiani, anche molti giovani che sono scappati dall'Italia, visto la situazione precaria e la difficoltà a trovare lavoro, sono arrivati in Tunisia per mettere su delle imprese, per trovare lavoro qui, per aprire dei ristoranti, dei bar, quindi anche questa immigrazione, e qui vengono ben accolti. Certo, a dirlo a noi che ci abbiamo fatto un programma sull'immigrazione italiana di questi giorni, no? E, ascolta, brevemente, siamo quasi in chiusura, la rivoluzione, sì, come ha cambiato la vita proprio la tua, diciamo solamente la tua per essere più, più brevi. Allora, purtroppo all'inizio avevo tante speranze e purtroppo invece la rivoluzione l'ha cambiata in peggio, anche perché sicuramente sapete che dopo la rivoluzione, alle elezioni che ci sono state in Tunisia, ha vinto il partito islamico, sì, sì. Che è attualmente al potere. E poi a me personalmente questo fatto tocca perché io insegno all'università e l'università dove insegno è occupata da tantissimi mesi da questo gruppo di estremisti, quindi anche, ho anche problemi a livello quotidiano, anche nel, certo. nel mio ambito lavorativo. E anche la situazione comunque in generale nelle città è cambiata, l'atmosfera è peggiorata, c'è molta più insicurezza e siamo un po' tutti preoccupati. Temi anche per quel clima di apertura che venga in qualche modo intaccato? Sì, purtroppo sì, perché lentamente sta cambiando e noto soprattutto che in alcune classi sociali si ci sta un po' ancora un po' più chiudendo su ideali religiosi, a volte estremisti, quindi ho paura che questa cosa prenda piede e si diffonda dappertutto. Cavolo, avremmo dovuto farla all'inizio questa domanda, perché così ci lasciamo con l'amaro in bocca. Avremmo dovuto farla prima e parlare dopo della bella esperienza dell'atelier, no Ricky? Sì, direi di sì, però vabbè, dai ragazzi, però consideriamo comunque tutte le cose belle che ci ha detto Manuelita, insomma non, sì, no, sì, sì, direi sì. Che se dovessimo fare un resoconto della puntata, insomma... Beh, intanto facciamo i complimenti a Manuelita. Direi no? Anche di sì. Grazie, grazie, grazie mille. Molto gentile, soprattutto... Una ragazza che ha le idee chiare e insomma volere è potere, no? Questo ce lo insegna. Sì. Questo insegna snowboarding. Questo snowboarding insegna che volere potere. Snowboarding, ricordatevi che intanto vabbè, se ci state già sentendo, chi no, siamo su www.radiosandona.it e il nostro blog è www.snowboardingradio.wordpress.com. Ci trovate su Facebook, fate mi piace su Snowboarding Radio, tutte le news spam che manda Checco le avrete voi, anche Marco e David eccetera, per chi non si ricordasse ci sono anche loro. E mail, la nostra mail è snowboardingradio@gmail.com. e direi che abbiamo detto tutto, non ho dimenticato neanche una e basta. Ti ringraziamo e a presto. Grazie allora. A voi. Magari a presto. A presto e a posto, dai. Ci vediamo il prossimo mercoledì sempre con Snowboarding. E questa qui è Angun con Snow on the Sahara. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao, ciao Manuelita. Ciao, ciao Manuelita. road to follow.